martello e fragole, non c'è solitudine per chi inventa favole. Sono su un pianeta che sembra fatto a cupole, viene di perché di sé, sciolti tra le nuvole. Ed io che ho sempre frequentato posti incogniti, son qui al Banco Dream a chiedere prestiti. A te che hai sempre governato l'impossibile, sfornando travel check e credit card e scatole alto fragile. Mi hanno raccontato che un posto per volare c'è, digitare il codice e poi avanti forza 3. Chissà se con tutto sto vento l'antenna codificherà, se tutti quei sogni che ho perso durante il percorso lontano una vita ripristinerà. Ma allora dimmi cos'è che ti fa stare sveglio la notte. Forse quella speranza nascosta nel cuore che ogni istante spinge un po' più in là. E allora dimmi cos'è che porta via le nuvole nere. Da qui non resta che vivere una notte senza nuvole. Senza nuvole.